Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di felicità e essenzialmente di numeri della felicità. E questo infatti il titolo del libro di Donato Speroni. Buonasera Speroni. Buonasera. Donato Speroni è un giornalista, posso dire di lungo corso. Direi di sì, perché sono diventato professionista nel 64, quindi calcolo un po' tu. Quindi lasciamo calcolare, dato che parliamo di numeri, ai nostri ascoltatori. È stato vice direttore del Mondo, direttore centrale dell'ENI, capo della comunicazione dell'Istat, e forse da questa esperienza all'Istat nasce gran parte del contributo di questo libro, che parla appunto di numeri, ma non solo e non tanto di statistiche, le classiche statistiche, ma cerca di fare un passo avanti, cercando di vedere come le statistiche possono parlare non solo di quantità, cioè dei classici numeri che misurano i prezzi, l'occupazione, il famoso prodotto interno lordo, il PIL, ma andare a guardare anche la qualità della vita. È questa in fondo la filosofia di questo libro, Speroni? Sì, guarda, come hai detto tu giustamente, io mi sono appassionato al mondo dei cercatori di numeri nei 5 anni che ho trascorso all'Istat occupandomi di comunicazione negli anni 90. E da allora ho continuato a seguire anche a livello internazionale tutto quello che si sta evolvendo, che sta cambiando nel mondo della statistica, perché contrariamente a quello che molti pensano, c'è una fortissima evoluzione, una fortissima ricerca. Il mio libro vuole essere un modo di raccontare questo processo ricerca di nuovi indicatori che a questo punto coinvolge in tutto il mondo centinaia se non migliaia di statistici, economisti, sociologi, psicologi, e che interessa direttamente la politica. Credo le statistiche comunque non vengono messe in causa, la statistica comunque è la base, poi si tratta di costruire sulle statistiche qualcosa in più. Ecco, ci hanno già provato, ci provano e ci sono già delle esperienze in questo senso di statistiche che misurano la qualità della vita. Ecco, tu nel libro peraltro citi per esempio anche la classifica che fa ogni anno a fine anno il Sole 24 Ore con le province italiane dove si vive meglio, ma anche a livello mondiale ci sono delle statistiche o delle rilevazioni, possiamo forse dire così, in cui si misurano anche il gradimento, il benessere, la qualità della vita. Questo è un passo, diciamo, un po' troppo ambizioso, Speroni, o è possibile? Ma dunque, esiste forse l'esperienza più nota è la statistica Gallup che fa una batteria di domande in 150 paesi chiedendo a un campione rappresentativo della popolazione su una scala da 0 a 10 quanto ti senti felice. Ora, bisogna anche intendersi poi sul concetto di felicità rispetto al benessere, perché in realtà poi quello che si sta cercando di misurare non è tanto la felicità istantanea, quanto lo stato di benessere complessivo e il rapporto di questo stato di benessere con tutta una serie di fattori che lo influenzano, e quindi la situazione economica, la salute, l'identificazione, la religiosità anche, l'identificazione con le istituzioni e così via. Indubbiamente è una statistica che nasce anche dai dati soggettivi, perché sono i singoli che giudicano se stessi, e quindi è una classifica in cui un po' pesa anche la diversa interpretazione che una persona può dare, e questo può portare anche che paesi più poveri siano più felici di paesi più ricchi. Certo, giocano anche i fattori soggettivi, ma io direi che nel momento in cui cerchiamo di allargare la misura del benessere al di là di quella che è la pura ricchezza pro capite, cioè il PIL pro capite, inevitabilmente entrano in gioco dei fattori soggettivi e difficilmente confrontabili anche. Ecco, per tornare alla indagine Gallup, che è riportata peraltro con una tabella nel libro, possiamo ricordare come al primo posto sia la Danimarca, al secondo la Finlandia, al terzo la Norvegia, al quarto i Paesi Bassi e al quinto un paese come Costa Rica, che pur avendo un reddito pro capite di $13,000 ha un reddito appunto che è un terzo di quello del paese precedente, cioè i Paesi Bassi, cioè l'Olanda. E l'Italia è al 36esimo posto, forse anche perché noi ci giudichiamo un po' male, Speroni. Sì, è possibile che noi abbiamo anche un fattore scaramantico per non dire che siamo troppo felici. Però attenzione, perché quello che secondo me è grave è che la media degli intervistati ha dato una risposta pari a 6,3, quindi diciamo che è un 6 più. Quando erano stati intervistati 2 anni prima, il campione, la media dava 6,8, cioè un 7 meno. Allora, quello che è grave, direi, è che sullo stesso paese e sullo stesso campione, che si presume rappresentativo dell'intera popolazione, c'è stato un arretramento che si traduce poi in 14 posizioni in meno nella classifica del benessere. E questo è significativo, anche questo fatto che siamo forse un po' più arrabbiati. Ogni tanto siamo arrabbiati anche con le statistiche. In Italia c'è forse quasi un gioco a mettere in discussione i numeri che si danno. Anche tu dici nel libro, ogni tanto i politici cercano di tirare per la giacchetta le stesse statistiche, usando positivamente quelle che sono favorevoli a certe tesi e mettendo in dubbio quelle che non sono favorevoli o al partito, al governo o a comunque a certe posizioni politiche. Ecco, questa abitudine a mettere in dubbio le statistiche è solo italiana? No, assolutamente non è solo italiano, è un problema internazionale, però da noi mi sembra che il fenomeno sia piuttosto grave. Nei giorni scorsi un economista, Tito Boeri, l'animatore della Voce.info, ha pubblicato un articolo in cui diceva: ma mentre le statistiche Istat sono presentate in modo oggettivo e quindi anche correttamente utilizzabili dai media, le statistiche di fonte amministrativa e quindi di fonte governo vengono date in modo distorto. Allora io non so se Boeri ha ragione o ha torto, però quello che è molto importante è che su questo si apra un dibattito. Ecco, ma appunto un dibattito che vuole mettere in luce che cosa? Cioè, in fonte Istat di solito nessuno mette in dubbio, l'Istat ha delle rilevazioni che sono scientifiche in un certo senso, ma ugualmente certe rilevazioni, per esempio quelle sui prezzi, ricordiamo tutte le polemiche che hanno accompagnato l'ingresso e l'adozione dell'euro, hanno messo in dubbio la stessa credibilità dell'Istat. Ma direi che quello è un tema superato, nel senso che a questo punto non c'è molto dibattito sulle statistiche Istat. C'è stato il momento dello shock del changeover, del cambiamento dalla lira all'euro, che era poi un problema avvertito anche in altri paesi e che poi ha trovato varie spiegazioni da parte degli economisti e dei sociologi. Però volevo dire una cosa: negli Stati Uniti, per esempio, esiste un sito che si chiama stats.org, che è un sito di un'università che analizza il modo in cui i media e i politici utilizzano i dati. In Italia, in fondo, questo tipo di lavoro da parte dell'accademia, della cultura, per dire no, questi dati sono validi, questi altri dati sono una stupidaggine, non lo fa nessuno. Cioè, questo non è un compito che può essere lasciato soltanto all'Istituto Nazionale di Statistica, dovrebbe essere un impegno della cultura economica. Ecco, in Italia forse c'è poca cultura economica, ogni tanto si dice, se non ci occupiamo di economia, l'economia si occupa comunque di noi, però si vede, questo forse ti chiedo un giudizio più da giornalista che da statistico, si vede quasi una diffidenza verso il sistema economico, come se il sistema economico fosse guidato un po' dall'esterno e che non ci sia un vero e proprio mercato. Anche questa è forse una particolarità italiana, la cultura economica in Italia è ancora molto da costruire. Diciamo che innanzitutto in Italia manca la cultura dei numeri, in fondo c'è una diffidenza verso tutto quello che si esprime con numeri, e poi c'è un tipo di cultura che è anche poi diffidente verso il mercato, insomma, ma queste sono, lo sappiamo bene, insomma. Ecco, in una fase come questa, in cui si parla tanto di ripresa, di superamento della crisi, di necessità di trovare la strada per agganciare un po' la crescita dopo il brusco calo che c'è stato nel 2009, che ha avuto delle conseguenze anche drammatiche dal profilo sociale, ecco, il guardare oltre il PIL non rischia di essere un po' un alibi? Visto che non riusciamo a far crescere il PIL, vediamo di far crescere qualche altra cosa. Forse bisognerebbe far crescere entrambe le cose, sia il PIL, sia il prodotto interno lordo, sia la qualità della vita. Sì, questo è assolutamente vero, però attenzione, in Italia si tende sempre a ideologizzare troppo questo dibattito, cioè nessuno vuole rottamare il PIL, anche Stiglitz, che ha presieduto la commissione voluta dal presidente francese Sarkozy per vedere come andare oltre il PIL, non ha mai detto andiamo oltre il PIL, ha detto diamo meglio tutta una serie di dati, la batteria di dati della contabilità nazionale che consente di capire la situazione. In Italia spero che si vada sulla stessa strada, perché adesso il CNEL, che è stato recentemente rinnovato, intende aprire un tavolo con tutti quelli che si chiamano i portatori di interesse, quindi sindacati, imprese, cioè tutti quelli che sono interessati a un buon uso dei dati, per discutere insieme col supporto tecnico dell'Istat in che modo andare oltre il PIL, non per cancellare il PIL, ma per dare un insieme di altre cose, anche perché, attenzione, non è possibile sostituire il PIL con un unico dato alternativo. Stiglitz fa un esempio e dice: se noi volessimo sapere al tempo stesso come va il PIL e se noi stiamo veramente preservando la nostra società per i nostri figli oppure no, cioè la sostenibilità, sarebbe come se in macchina noi volessimo avere un unico indicatore che ci dice a che velocità andiamo e quanta benzina è rimasta nel serbatoio. Non ci servirebbe a niente. Quello che invece ci serve è un cruscotto, un set di indicatori, e dobbiamo imparare a leggere tanti indicatori insieme. Questo richiede più cultura economica e richiede consenso. Quindi se questa iniziativa del CNEL riuscirà a costruire consenso, questo mi sembra che possa essere molto importante. E allora si può iniziare ad avvicinarsi un po' seriamente al mondo dei numeri, pensando che è un mondo amico e non nemico, leggendo questo libro. Lo ricordo, Donato Speroni, che ringrazio per essere stato con noi questa sera, I numeri della felicità, dal PIL alla misura del benessere, edito da Cooper, costa 15 euro e sono oltre 290 pagine, ma è un libro che si legge con interesse, non è un libro zeppo di numeri, ma un libro che guarda ai numeri con la voglia, con la capacità e con la volontà di renderli anche qualcosa di che incuriosisce, che fa riflettere e che aiuta a capire la realtà che ci circonda. Grazie a Donato Speroni, grazie a quanti ci hanno ascoltato.